GR Sport. Un augurio di buona giornata da Paolo Panceri. Gli europei di nuoto olandesi di Eindhoven si chiudono molto bene per l'Italia, con un totale di 21 medaglie, 5 d'oro, 7 d'argento e 9 di bronzo, una sola medaglia dal record di Budapest 2006. Gran finale in particolare ieri, con Federica Pellegrini che ha vinto l'oro nei 400 stile libero e con 4 minuti, 1 secondo e 53 centesimi ha stabilito un nuovo primato del mondo, oltre a diventare la prima donna scesa sotto i 4 minuti e 2 secondi. Sentiamola commentare il record ai microfoni di Rai Sport. Inaspettato assolutamente. Ho fatto una gara, penso, regolarissima, perché comunque sono arrivata alla fine che comunque il cambio di ritmo un po' c'è stato, quindi no, io non me lo sarei mai aspettato, devo ancora realizzare. Io volevo vincere perché infatti il mio segno bla bla bla quando sono arrivata è per tutte le cose che mi hanno detto, è sempre seconda, di qua di là. E penso che oggi abbiamo dato una bella dimostrazione di quello che è Federica Pellegrini. Podio mancato invece per Alessia Filippi, giunta quarta, sentiamola. Sì, no, dai, sono contenta. Purtroppo ho visto proprio che stavano veramente tanto avanti. Non dico che ho mollato perché non mollo mai, però comunque un po' di stanchezza, dai, ce l'abbiamo addosso. 2 ori, un bronzo alla staffetta. Più contenta di così proprio, cioè torno a casa felicissima. Oltre alla Pellegrini, le ultime medaglie di ieri sono arrivate da Francesco Dell'Uomo, bronzo nella finale tuffi dalla piattaforma 10 metri, e da Luca Marin, anch'egli bronzo nei 400 misti. Solo quinta invece l'Italia nel 4% maschile, con Di Tora, Facci, Villa e Galenda. Da segnalare nei tuffi l'oro vinto dall'inglese Tom Daley, di soli 13 anni. Passiamo al calcio. Oggi a Baku la nazionale Under 21 giocherà contro l'Azerbaigian per la qualificazione europea. L'attaccante del Milan, Alberto Paloschi, sostituirà Andrea Russotto del Treviso. Altro cambio, quello del difensore atalantino Daniele Capelli al posto di Marco Rossi del Parma. Sentiamo per Luigi Casiraghi, che si mostra ottimista. Conta la voglia di vincere, soprattutto arrivati a questo punto della stagione, perché non dobbiamo buttare via tutto il lavoro di un anno. Domani invece la nazionale maggiore giocherà a Elche, la Spagna, nell'ultima amichevole prima delle convocazioni per l'Europeo. Ieri ultimo allenamento preparatorio per gli uomini di Donadoni allo stadio San Siro di Milano. E in Serie A, come previsto, Francesco Guidolin è stato esonerato dalla panchina del Palermo. Si chiude così anche il quarto ciclo del tecnico veneto alla guida della squadra rosanero. Torna Stefano Colantuono, che a sua volta era stato licenziato dal presidente Maurizio Zamparini il giorno dopo la batosta con la Juventus del 25 novembre, finì 5-0 per i bianconeri. Fatale per il tecnico veneto non soltanto la sconfitta interna con il Genoa, terza consecutiva dopo quelle con Inter e Parma, ma anche l'atteggiamento tenuto nel dopopartita. E passiamo alla Formula 1. La vittoria della Ferrari nel Gran Premio della Malesia ha parzialmente riscattato la gara in Australia, ma il primo posto di Kimi Raikkonen a Sepang non è servito ad attenuare la questione degli scarsi risultati di Felipe Massa, con 2 ritiri, molti errori e 0 punti in classifica. Si mostra comunque soddisfatto per la prestazione della squadra Stefano Domenicali, responsabile della gestione sportiva del cavallino. Era nostro compito riscattare la brutta prestazione che avevamo fornito domenica scorsa in Australia. Siamo contenti perché abbiamo dimostrato qual è il nostro potenziale, abbiamo dimostrato che la squadra sa reagire, sa lavorare, sa stare tranquilla. Abbastanza nervoso invece Felipe Massa, infastidito dalle voci su un possibile cambio la prossima stagione con lo spagnolo Alonso, con il tedesco Vettel. Prima non devo dimostrare niente a nessuno, secondo sicuramente era una gara facilmente di fare primo e secondo, quindi sappiamo che abbiamo il potenziale, poi sicuramente speriamo di fare una gran gara in Bahrain. È tutto per GR Sport, ancora un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.